Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. E questo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Questa è la minaccia del governatore De Luca a proposito delle regioni che in questi giorni, abbiamo parlato molto con Effetto Notte, hanno dato questa accelerata almeno nelle intenzioni, come per esempio la Lombardia, che è stata la prima a sorpresa due giorni fa a chiedere al governo di poter riaprire, cominciare le riaperture, la fase 2 dal 4 maggio. Poi si sono accodate anche il Veneto, il Piemonte e la Sicilia, e quindi De Luca, spaventato, dice insomma noi siamo in una situazione ancora sotto controllo, tutto sommato, vi ricordate, rispetto alle paure e timori che c'erano all'inizio per quello che poteva succedere al sud, e quindi dice noi insomma stiamo tenendo sotto controllo l'epidemia, se queste regioni fanno dei salti in avanti prima del tempo, allora a questo punto, questa è la minaccia di De Luca, chiuderemo i nostri confini, chiuderemo la campagna a chi viene da altre regioni. E questo per dire che insomma la situazione è sempre abbastanza tesa. A proposito di differenze tra le regioni, per quanto riguarda la fase 2, in effetti oggi è emerso che si sta pensando a una differenziazione nei momenti, nel periodo di apertura, insomma di quando ci sarà una specie di ripartenza tra le varie regioni in modo diverso, quindi quelle che sono meno colpite ovviamente apriranno prima, saranno più avvantaggiate, e quelle come la Lombardia si ipotizza insomma che apriranno più tardi. Si divide per macro aree questo programma per la fase 2 e cercheremo di entrare un po' più nel dettaglio. Poi parleremo anche del voto che c'è stato al Parlamento, o l'Europarlamento, da parte italiana, in modo un po' diciamo confuso sul MES, sugli Eurobond e poi sui recovery bond. Cercheremo di capire meglio come è andato questo voto con PD e Movimento 5 Stelle, che sono entrati in conflitto per questi voti. Poi c'è un altro argomento molto interessante. Ieri parlavamo del fatto delle indicazioni, delle regole che la Commissione Europea ha dato per le app di tracciamento che ogni governo in Unione Europea dovrà adottare per la fase 2 di tracciamento della diffusione del virus. Ebbene, oggi il governo ha scelto quella che sarà adottata in Italia, e viene da una società italiana, messa a punto da 5 giovani, 4 italiani e 1 polacco. Anche di questo parleremo. Poi ci sarà il meteo da guardare dalla finestra, naturalmente, ma sempre ci interessano comunque le previsioni, quindi allacciate le cinture, siete a casa naturalmente o al massimo al lavoro o nel tragitto per il lavoro a casa. 349-238-6666 è come sempre il numero per SMS e WhatsApp, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. E poi c'è il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure durante il giorno per aggiornamenti, Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. I dati sul coronavirus in Italia sono complessivamente 106.962 i malati, rallenta il numero appunto dei contagiati e dei ricoveri, aumenta di molto quello dei guariti, ma i morti restano tanti, 575 in un giorno, la metà in Lombardia, complessivamente le vittime sono 22.745. La fase 2 si pensa a una divisione in tre macro aree, nord, centro e sud, e riaperture differenziate. Il presidente campano De Luca minaccia: chiudiamo la Campania se le regioni del nord allentano le misure. E intanto è stata scelta dal governo l'app per tracciare la diffusione del virus in Italia. Gli strumenti economici, caos messa all'Europarlamento, PD e Movimento 5 Stelle si dividono, Buffagni accusa Salvini di essere un traditore, via libera intanto ai recovery bond. Ogni settimana il blocco delle attività economiche costa all'Italia 0,5% del PIL annuale. Oggi è arrivato l'accredito del bonus da 600 euro per gli autonomi, oltre 4 milioni le domande. Stati Uniti, oltre 33.000 i morti e 670.000 i casi di contagio. Calcio a giugno in campo, dice il presidente della FIGC Gravina, Ricciardi dell'OMS, dice stiamo proponendo di giocare nel centro-sud. Partiamo quindi, come sempre, dai dati della Protezione Civile sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Il numero dei contagiati totali da coronavirus nel nostro paese, compresi morti e guariti, è di 172.434, con un incremento rispetto a ieri di 3.493. Più in specifico, sono 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 355 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.189. Quindi si tratta, tra ieri e oggi, dell'incremento più basso dal 2 marzo. Sono 22.745 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 575. Quindi rallenta il numero dei malati e dei ricoveri e aumenta di molto quello dei guariti, ma i morti restano comunque tanti. E oggi il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha annunciato un cambiamento. I dati sanitari di oggi ci indicano ancora una volta che si è decisamente alleggerita la pressione sulle strutture ospedaliere. In questa fase dell'emergenza abbiamo deciso quindi di rimodulare le nostre conferenze stampa. Continueremo a garantire il massimo della trasparenza sui dati e ogni giorno forniremo sul nostro sito e sui nostri social l'aggiornamento della situazione, mentre due volte la settimana, il lunedì e il giovedì, sempre alle ore 18, terremo questo punto stampa. Quindi non ci sarà più quotidianamente alle 18 il bollettino Protezione Civile, come avete sentito, ma sarà bisettimanale. Di fronte a questi numeri si cerca comunque di pensare a una ripartenza, alla cosiddetta fase 2. Riaperture differenziate sul territorio a seconda della diffusione del virus, con la possibilità però di ripristinare le chiusure dopo 15 giorni in caso di una mancata tenuta delle misure di contenimento. Sarebbe questa l'ipotesi alla quale stanno lavorando gli esperti nominati dal governo per programmare la fase 2. L'Italia verrebbe suddivisa in tre macro aree. In quelle dove la presenza del virus è maggiore dovrebbero restare misure più stringenti, specie per quanto riguarda la mobilità. In quelle dove invece l'epidemia è stata meno importante si potrebbero prevedere riaperture più ampie. L'avvio della fase 2 intanto divide il fronte dei governatori. Quelli di Lombardia e Veneto, Zaia e Fontana, insistono su una ripresa delle attività dal 4 maggio. Dal governatore della Campania, De Luca, arriva però un altolà. Se dovessimo avere una corsa in avanti, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E comunque poi per quanto riguarda la fase 2 entreremo più nel dettaglio e anche capiremo, insomma, se c'è un certo coordinamento, se c'è una certa omogeneità al di là di queste differenziazioni, ma insomma da un punto di vista del coordinamento centrale. A proposito di fase 2, aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili, sono quattro comparti produttivi di cui si starebbe valutando la riapertura prima del 4 maggio, forse a partire addirittura dal 27 aprile. Sul tema però dovrebbe esserci a breve, forse già nel fine settimana, un nuovo confronto con le parti sociali. Intanto Banca Italia fa i conti di quanto costa questo lockdown, questa chiusura totale. Questa situazione eccezionale richiede un'azione che va presa a tutti i livelli, nazionale, regionale, globale. Poiché la crisi è globale, anche la risposta deve esserlo. Un accresciuto coordinamento tra paesi in risposta alla pandemia ci permetterà di uscire insieme più velocemente e a un costo minore. Così ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Ogni settimana di blocco dell'attività economica di questa portata comporta una riduzione del PIL annuale di circa lo 0,5%. Sono i dati che fornisce la Banca d'Italia e il conto è presto fatto. Le attività commerciali e industriali non ritenute essenziali contribuiscono a circa il 28% del totale del valore aggiunto. Attività tutte ferme. Con un meno 0,5% a settimana, la caduta del PIL, secondo Banca Italia, arriverebbe dunque attorno al 5% nel primo trimestre dell'anno a causa dell'emergenza, mentre la produzione industriale avrebbe subito un ribasso del 6%, un dato cui va aggiunto il terziario, dove le misure, si legge ancora nel bollettino, hanno pressoché azzerato il fatturato di gran parte del commercio al dettaglio non alimentare, alberghi, bar, ristoranti, aziende di turismo. Il protrarsi delle misure di contenimento comporterà dunque a conti fatti una significativa caduta del PIL, anche nel secondo trimestre, da aprile a giugno, cui farà verosimilmente seguito un recupero che potrà sì anche essere sostenuto, stima la Banca d'Italia, ma dipenderà dall'efficacia delle politiche economiche decise ora. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In questo quadro di profonda crisi cominciano ad arrivare i soldi del bonus da 600 euro per gli autonomi, bonus che potrebbe salire a 800 con i prossimi provvedimenti. Sono oltre 4 milioni le domande presentate da autonomi e professionisti per il bonus da 600 euro. Tutti gli aventi diritto sono stati pagati entro oggi, assicura l'INPS. Chi non ha ricevuto il bonifico, una piccola minoranza, non aveva i requisiti. È appena partito invece il pagamento del bonus al 500.000 di professionisti iscritti agli ordini. La cassa integrazione è stata pagata a circa la metà dei 4.500.000 di lavoratori coinvolti, i restanti entro aprile. Parte solo ora invece la cassa in deroga per le piccole imprese, 2,6 milioni di lavoratori. Il governo con il decreto aprile in preparazione vuole alzare il bonus autonomi a 800 euro per aprile e maggio e rifinanziare la cassa integrazione. Allo studio anche un reddito di emergenza per 2 mesi che copra lavoratori precari e in nero, colf e badanti, tutti esclusi dal Cura Italia. Nel frattempo le banche stanno rivelando qualche affanno più del previsto nel gestire la valanga di domande di credito garantito in base al DL liquidità, soprattutto i 25.000 euro per le microimprese. Alcune banche sono impreparate, denuncia Lando Simeoni, segretario del sindacato Fabi. Se costretto farò i nomi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto la politica si divide a Roma come a Bruxelles sugli strumenti da utilizzare per fronteggiare la crisi economica causata dal coronavirus. In una giornata caotica e confusa sul fronte italiano, il Parlamento europeo dà il via libera ai recovery bond, apre al fondo salva stati e dice no ai corona bond, luce verde anche alla piena flessibilità nell'uso dei fondi strutturali per affrontare l'emergenza coronavirus. Sui corona bond interviene il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Il recovery bond, cioè della possibilità di finanziare sui mercati internazionali i fondi che verranno destinati alla ricostruzione. E quindi ci sia una mutualizzazione rispetto al debito che si produce. Nel frattempo nella rappresentanza italiana è un tutto contro tutti. Movimento 5 Stelle e PD votano in contraddizione sul MES, 5 Stelle no, PD insieme a Forza Italia e Italia Viva a favore della risoluzione che invita i paesi dell'Eurozona ad attivare 410 miliardi di euro del MES. No ai corona bond da parte di Lega e Forza Italia, favorevoli 5 Stelle, PD e Fratelli d'Italia proposti dai Verdi. Infine i 5 Stelle si spaccano al loro interno sul voto all'Eurocamera con 10 astensioni e 3 contrari. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso di scuola. La ministra Azzolina è intervenuta, dell'istruzione è intervenuta nuovamente sulla ipotesi di riaprire o meno la scuola, ma è stata chiara, ha detto a giorni il governo prenderà una decisione, ma riaprirle per poche settimane, mentre il paese conta oltre 500 morti al giorno per coronavirus, rischierebbe solo di vanificare gli sforzi fatti, scrive su Facebook, dice dobbiamo, Azzolina dice dobbiamo fare ancora qualche sacrificio per poter tornare a scuola nello stesso modo in cui ci andavamo prima. E fra l'altro è intervenuto stasera ancora Walter Ricciardi, che è rappresentante italiano dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto una cosa che certo non fa piacere a nessuno: è certa la seconda ondata epidemica in autunno, non bisogna accelerare le riaperture o verrà anche prima. Questo ha detto Ricciardi. E tra i medici a causa dell'epidemia di Covid-19 si registrano altri 4 decessi oggi. Il totale, si apprende dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, sale così a 131. Le vittime crescono anche tra gli infermieri, ne sono morti altri 3 oggi, e così le vittime salgono a 34. Gli infermieri contagiati dal virus sono ad oggi 8.800. E la buona notizia è che ci saranno nuove assunzioni per gli infermieri, saranno previste nel prossimo decreto di aprile, si tratterebbe di alcune migliaia di assunzioni per fare anche fronte al carico dell'assistenza domiciliare legata appunto all'epidemia di Covid-19. La situazione all'estero: sono quasi 4 miliardi e mezzo, in realtà mondiale, 4 miliardi e mezzo le persone attualmente confinate a casa nel mondo a causa della pandemia, secondo l'agenzia France Presse. Si tratta quindi del 58% della popolazione globale. La Germania annuncia importanti novità sul fronte della lotta alla pandemia, ma non abbassa ancora la guardia. Nun können wir sagen, das war erfolgreich. Il ministro della salute Spahn ha affermato che la situazione nel paese è sotto controllo, forte di una valutazione del Robert Koch Institute che stima un tasso di nuove infezioni sotto quota 1 a 0,7. Proprio la Germania è tra i paesi capofila del lento ritorno alla normalità, ma nulla sarà come prima. La Sassonia ha annunciato l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e nei negozi. Nel paese la media delle vittime è di 300 al giorno per un totale di quasi 4.000. In Francia la notizia del giorno è la positività di 1.081 marinai sui 2.300 stazionati sulla porta aerei Charles de Gaulle, 20 ricoverati. È un mistero il come siano stati contagiati avendo fatto un solo scalo a Brest. In Gran Bretagna il numero delle vittime è sempre elevato, 847 in un giorno. In Spagna 585 nuove vittime, mentre il governo lavora a un ritorno alla normalità aziendale in due fasi. Un primo gruppo entro l'estate, i settori più a rischio entro fine anno. Boom di casi e vittime negli Stati Uniti, oltre 670.000, più di 33.000 morti, mentre in Cina emerge lentamente la verità sulla sottostima del contagio a Wuhan, città simbolo del coronavirus, riviste a rialzo del 50% i decessi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, obbligo di vaccino antinfluenzale e antipneumococcica per gli over 65 e il personale sanitario nel Lazio dal 15 settembre. Il presidente della Regione Lazio ha firmato l'ordinanza che prevede tra l'altro l'inidoneità temporanea del personale sanitario in mancanza di vaccinazione. La mancata vaccinazione per le persone ultra 65 anni nel Lazio a partire dal 15 settembre comporterà l'impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione che non consentano di garantire il distanziamento sociale. C'è un allarme degli idraulici, molti edifici come le scuole e gli hotel attualmente sono chiusi a causa dell'emergenza coronavirus. Bene, gli idraulici lanciano l'allarme legionella: per non dover fare i conti con un problema di legionellosi dopo la pandemia Covid-19 dobbiamo agire adesso, dice il presidente degli installatori di impianti termosanitari in Alto Adige, Harald Kraller. Quando l'acqua potabile rimane ferma nelle tubature il rischio è quello di incorrere velocemente in un problema igienico. L'acqua stagnante nelle tubature può diventare in breve tempo un pericolo per la salute, in questo modo viene infatti favorita la formazione di germi e legionellosi e quindi bisogna scongiurarlo in anticipo. Tutti i rubinetti, come ad esempio quelli di lavandini e delle docce, dovrebbero venire aperti per alcuni minuti almeno una volta ogni 3 giorni. Una sentenza della Cassazione: gli atei e gli agnostici hanno lo stesso diritto paritario dei fedeli delle diverse religioni di professare il loro credo negativo ed è vietato discriminarli nella professione di tale pensiero del quale possono fare libera propaganda, con l'unico limite, dice la Cassazione, valido per tutti, di non offendere la fede altrui. Lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso dell'Unione Atei Agnostici e Razionalisti contro il Comune di Verona che gli aveva negato di affiggere manifesti. Sport, anche nello sport differenziare le aree più per livello di rischio è giusto. Stiamo proponendo di giocare al centro-sud, non ha senso vietare attività dove ci sono 0 casi come la Basilicata, sempre lo ha detto Walter Ricciardi, membro dell'OMS. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha detto che è stato elaborato un protocollo sanitario attento ma flessibile che verrà consegnato domani ai ministri Spadafora e Speranza. Serviranno 3 settimane di sicurezza, ha spiegato, quindi a fine maggio, inizio giugno si può cominciare. Della questione campionati ha parlato a tutti i convocati anche il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia. No, io sono in contatto con i miei presidenti regionali, con qualche delegato provinciale, perché noi diciamo abbiamo una ragnatela enorme di presenze sul territorio, abbiamo nostri rappresentanti. E, soprattutto nelle zone maggiormente colpite hanno delle difficoltà a poter dire che il campionato debba riprendere, però io sono perché quando ci sarà eventualmente la possibilità e soprattutto quando ci sarà la sicurezza dal punto di vista sanitario, io sono perché il rettangolo di gioco sia il giudice che deve dare il responso, cioè chi vince, chi perde deve passare attraverso il rettangolo di gioco. Mi rendo conto che tutto questo non è possibile, diciamo, deciderlo ora, perché i tempi li detta il coronavirus, purtroppo, questa tragedia che ci stiamo portando avanti da un po' di tempo a questa parte. Quindi non siamo perché ufficialmente, diciamo, lo dice il presidente della Lega Dilettanti, perché diciamo il giudizio sui campionati venga dato dal rettangolo di gioco, però ci rendiamo conto. Bella atmosfera, ti prego non mi uccidere il mood, dai. Langue la classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rivelazioni di Fimi GFK, un immobilismo dovuto naturalmente alle poche o nulle uscite discografiche rimandate a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus. Poche le variazioni rispetto a una settimana fa, con Marrakesh che si conferma in vetta con l'album Persona, uscito ormai da 24 settimane e ora stabile, lo sentite anche Gali con DNA al secondo posto. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, non è radio friendly. Sono solo un bene, ci sentiamo tra pochissimi minuti, cominciamo allora con gli ospiti ad approfondire alcuni argomenti come il voto all'Europarlamento e poi questa benedetta fase 2. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime le notizie, come sempre vi ho riassunto nella parte iniziale della puntata, quindi Effetto notte, Roberto Giordano sempre con voi, adesso per cominciare invece ad addentrarci in alcuni argomenti con gli ospiti. Se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. E a proposito di questo c'è Livio dalla Sicilia, vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Livio dalla Sicilia dice: Roberta, anche nel mondo del calcio si sta pensando di giocare le ultime partite solo nel Sud Italia, ci sarà un motivo. Eh sì, purtroppo Livio, ci sarà un motivo, della fase 2 parleremo tra poco. Adesso invece con la nostra Barbara Fiammeri, cara Barbara. Barbara, ci sei? Ci sono. Ti sento forte e chiara. E dicevo, per quanto riguarda gli strumenti economici da adottare a livello europeo proprio per affrontare questa grave crisi globale causata dalla pandemia, che cosa è successo oggi all'Europarlamento? Sì ai recovery bond, apertura sul famigerato, famoso MES, come vogliamo chiamare, il Fondo Salva Stati, il meccanismo europeo di stabilità. Il Movimento 5 Stelle, che ha votato diversamente dal PD, su questo si sono scontrati. No invece ai corona bond, il PD e il Movimento 5 Stelle si sono divisi, poi Buffagni invece sugli euro bond accusato di tradimento Salvini. Insomma, una gran confusione. Barbara, con la tua chiarezza e lucidità ci spieghi tu che cosa è successo? Ecco. Questa volta davvero non è facile. Riassumerei con questo titolo: che gli italiani si sono presentati a questa sessione plenaria del Parlamento europeo in ordine sparso, ecco. Tutti. Mi pare un ottimo titolo. Molto allora, chiaro. Abbiamo da un lato che c'è stato il voto finale su una risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza, cioè il PPE, i socialisti e Renew, che è quello di dove ci sta anche Macron e Italia Viva, ma ci sta anche il partito del famigerato Premier Rutte, o il famigerato Premier olandese. Cattivone. Uh-huh. Che appunto questa risoluzione prevede da un lato l'utilizzazione del MES con questa linea di credito speciale per affrontare l'emergenza sanitaria senza condizionamenti. Qui riapro tutta la parentesi che avevo già detto nei giorni scorsi, avevo anche ieri, e cioè che attenzione, perché poi questa è un'indicazione politica quella che è contenuta nella risoluzione, poi bisognerà vedere quando si metteranno al tavolo giovedì prossimo i capi di Stato e i capi di governo per decidere nel concreto cosa significhi non avere condizionamenti, perché poi, come si dice spesso, no? Il diavolo si annida nei dettagli. E mai è vero quando si discute di temi di questa portata. Quindi per sintetizzare, ma solo faccio giusto un inciso, Barbara. No, dicevo, quindi se c'è qualche perplessità da parte del Movimento 5 Stelle o Lega, eccetera, può essere giustificata in questo momento finché non sono chiare le condizioni? Ma cioè, qui c'è un tema che però è politico in generale. Cioè, come si può pensare che una maggioranza che ha un capo del governo che giovedì la rappresenterà e andrà a portare le istanze di questa maggioranza in Europa si presenta divisa e ognuno vota per conto proprio? Cioè, dovresti avere almeno come maggioranza una linea unitaria. Potrei fare lo stesso ragionamento, anche se è meno grave, per l'opposizione. Cioè, non è un dettaglio se Forza Italia vota insieme al PD e Italia Viva e dall'altra parte ci stanno la Lega e Fratelli d'Italia. Però Berlusconi poco fa ha detto: non si illuda il centrosinistra perché il centrodestra è unito. Ha detto così. Visto sì, Berlusconi ha detto questo anche perché secondo me c'è un occhio rivolto anche alle regionali che ci saranno quest'estate e quindi, come dire, non è che adesso si può rompere. E poi soprattutto penso che qualunque aggiustamento di maggioranza passa per un nuovo governo, insomma, cioè non è che rimane questo governo e Forza Italia dà una mano al governo ad andare avanti. Fico, non la vedo così. Presidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Fico, poco fa, leggo la dichiarazione, ha detto: è irresponsabile usare la fase 2 per cacciare Conte, utilizzare la fase 2 per disarcionare Conte, preparare un governo delle larghe intese, magari con Draghi, sarebbe un atteggiamento irresponsabile. Mentre Di Maio, sempre dei 5 Stelle, dice: la gente sta morendo, le persone non vogliono vedere politici che litigano ma che ottengono risultati. L'ho detto a TV 2000 rispondendo alla domanda del giornalista che chiede delle divisioni interne alla maggioranza sul MES, cioè tra Movimento 5 Stelle. Ma io gli vorrei chiedere allora le divisioni interne allo stesso Movimento 5 Stelle, perché l'altra cosa carina e veramente direi ancora più paradossale è che i 5 Stelle tra di loro si sono divisi, nel senso che sulla risoluzione finale la maggioranza del gruppo si è astenuta e tre hanno votato addirittura contro, quindi cioè per questo dico in ordine sparso, sì, addirittura sparsissimo, potremmo dire, che si sono divisi al loro interno, lasciando intravedere poi che le tensioni che ci sono, quando noi parliamo appunto delle tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle in Italia, insomma questo sembra un po' il prologo di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Molto dipenderà da che cosa Conte riuscirà a strappare giovedì all'Eurogruppo. Sarà un giorno davvero cruciale. Queste condizioni non ci saranno, allora sarà molto difficile e addirittura incomprensibile il no al MES, cioè se non ci fossero davvero dei condizionamenti. Barbara, allora ci diamo appuntamento per giovedì o anche prima, naturalmente. Direi prima. Come facciamo? Così lontane non possiamo. Intanto ti abbraccio così virtualmente, ma in qualche modo anche carnalmente, diciamo, se si può dire a quest'ora. Va bene? Va bene. Grazie, ciao, Barbara. Cara. Ciao, cara. E adesso invece prende il posto di Barbara Femeri il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto, vado sempre di fretta, mi mangio a volte le parole anche perché è ora di cena. Senti, Alberto, allora, invece per quanto riguarda la fase 2, no? Oggi abbiamo sentito dire dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, che la curva decresce. Certo, ci sono sempre comunque tanti morti, i numeri sono sempre drammatici, però ha detto la curva decresce e il passaggio alla fase 2 dovrà essere affrontato con molta cautela, mentre il rappresentante del sempre Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, che è stato tante volte qui ospite a Effetto Notte, ha detto, lui è direttore del Dipartimento Malattie Infettive, il virus non sta scomparendo e inoltre tende a essere contagioso prima che compaiano i sintomi e anche dopo la riapertura bisognerà continuare a parlare di distanziamento sociale, zone rosse. Abbiamo sentito De Luca molto preoccupato, il presidente della Regione Campania, rispetto a, diciamo, le accelerazioni che vorrebbero Lombardia, Veneto, Piemonte e Sicilia. Però adesso la task force dei tecnici creata dal governo e diretta da Colao studia delle riaperture differenziate, no? Per macro aree a seconda della diffusione del contagio e poi farebbero un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento. Queste macro aree sarebbero 3, nord, centro e sud, con anche delle differenziazioni all'interno delle macro aree, perché al nord certamente la situazione per esempio della Val d'Aosta non è la stessa della Lombardia, Alberto. Sì, certo, questo è il canovaccio che riporta un'indiscrezione di stampa, ma la sensazione di fondo rimane un po' una sensazione di grande confusione, di grande incertezza, di grande dispersione di energie istituzionali, un po' la figura da paese di operetta, francamente, che abbiamo fatto oggi nella riunione dell'Europarlamento, rischiamo di farla anche in questa sovrapposizione continua di ruoli istituzionali, la task force centrale, le task force regionali, il centro decisionale del Ministero, la sintesi a Palazzo Chigi che tarda ad arrivare. C'è una continua nebbia, un pulviscolo informativo che crea solo incertezza anche nei cittadini, che francamente non ne possono più. Comunque sì, in ogni caso la task force produrrà questo documento in cui ci sono almeno una dozzina di settori già identificati dall'INAIL come a bassa pericolosità, sì, che potranno riaprire naturalmente mantenendo i distanziamenti individuali, mantenendo le forniture di protezione individuale, occhiali, mascherine e quant'altro. Quindi bisognerà verificare a cura di Arcuri, il commissario straordinario per l'emergenza, il commissario, sì, straordinario, che dovrà garantire l'approvvigionamento appunto di questi dispositivi nelle aree che potranno riaprire. Quindi c'è una serie di sovrapposizioni di mappature, diciamo, per cui devi vedere quali sono le potenziali zone rosse, devi vedere quelle dove far confluire gli approvvigionamenti di mascherine, devi vedere come interagiscono i trasporti pubblici tra le varie aree, soprattutto già se si creano zone rosse all'interno di macro regioni o addirittura poi, di province. Perdonami Alberto, il fatto una babele camminare, insomma, e muoversi, soprattutto per i mezzi pubblici. Infatti il fatto di scaglionare o di spalmare i giorni lavorativi, come proponeva per esempio il presidente della regione Lombardia Fontana già ieri, cioè su 7 giorni anziché su 5, poi prevederà anche una riorganizzazione completa dei trasporti pubblici. Pubblici, no? Comunque, a proposito delle liste che dicevi tu a basso rischio, a medio rischio, che sta cercando di elaborare l'INAIL, tra quelle a basso rischio ci sarebbero per esempio l'agricoltura, la pesca, l'estrazione di minerali, le imprese edili, poi l'industria manufatturiera in generale, alimentare, tessile, chimica, eccetera, le agenzie di viaggio, le biblioteche. Rischio medio sarebbero per esempio gran parte dei settori del commercio, a cominciare da ristorazione e attività sportive, la scuola, l'istruzione. Rischio alto il trasporto aereo, l'assistenza sociale, quella sanitaria non residenziale. Sì. Tra l'altro ci sono spazi anche per la manifattura, la metalmeccanica strategica, per il legno arredo, sì, che sono a bassa intensità e a basso rischio, quindi questi sono settori importanti per le riaperture, anche perché assorbono tantissima occupazione. È una sfida grossa che va congegnata, ha bisogno di sincronismi sociali tutti da organizzare, che saranno oggetto, presumo, del lavoro che sta facendo la task force, ed è una novità assoluta molto importante. Le aziende dal canto loro stanno facendo grossissimi passi avanti con questi accordi sindacali molto importanti. Oggi ce n'è stato un altro alla Electrolux, tutto il gruppo FCA nelle varie subholding ha già fatto tutti i vari accordi sindacali per le modalità di riapertura in sicurezza. Sono segnali grossi che appunto lasciano intendere che soprattutto le parti sociali, come sempre, fanno poi supplenza alle carenze del decisore politico. Non è la prima volta che succede, ed è successo anche su scale molto più grandi. Bisognerà vedere, per ora ripeto, la sensazione è proprio questa di una grande incertezza, di un momento di leadership vacante, per così dire, o scarsa, tanto è vero che ci sono questi continui movimenti di free riding dove ciascuno si sente in diritto di andare dove gli pare, sia, diciamo, rispetto alla disciplina di partito, oggi per esempio nel voto dell'Europarlamento, ma sia soprattutto adesso tra i diversi livelli istituzionali. È ridicola questa cosa della Campania che chiuderebbe i confini alle eventuali cittadini delle regioni del nord, voglio dire, sono battute, d'accordo, ma il momento è tragico, avrebbe bisogno di tutt'altro, di tavoli dove si riescano davvero a concentrare le idee e a tirar fuori dei piani con cronoprogrammi precisi e con energie concentrate sul punto. Invece siamo preda di continue dichiarazioni, di continue scelte in libertà, non coordinate, che rispondono probabilmente alla fine semplicemente a esigenze un po' di propaganda, un po' di necessità appunto politico-partitica, e questo non è bello, francamente. Leggo tra i vari messaggi, ma scusate, se si va al sud a giocare le partite si rischia di portare infezioni al sud, allora ha ragione De Luca. Poi qualcun altro che parla invece di altri aspetti, ma cosa pretendete? La lotta politica è per fazioni, quindi alleanze di oggi sono bene accette. Federico da Firenze, vabbè, queste sulle questioni politiche. Vedevo che il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con tutta una serie di limitazioni, di divieti, anche bar, ristoranti e parchi. anche che possano riprendere. Certo, questo sempre tra le indiscrezioni, ho visto anche io prima un po' di agenzie. Nulla di ufficiale, infatti poi da Palazzo Chigi è venuta fuori la nota per cui si dice per ora non è stata presa nessuna decisione ufficialmente. Poi per quanto riguardava i trasporti, appunto, si prevederebbe la riorganizzazione dei trasporti strettamente collegata all'ipotesi di differenziare gli orari di ingresso ed uscita dai luoghi di lavoro, dovrebbe prevedere modalità per contare i passeggeri e una segnaletica a terra. Insomma, veramente tante, tantissime cose da pensare ed organizzare, Alberto, speriamo di essere pronti, insomma, per il 4 maggio. Poi parleremo tra pochissimo anche delle app, perché è stata scelta dal governo l'app per tracciare la diffusione del virus e quindi seguire le persone positive, avvisare quelle che magari vengono in contatto con queste, eccetera, eccetera. Insomma, cominciamo da lì, Alberto, poi vedremo. Va bene. Grazie Alberto Rioli, un abbraccio anche a te. Grazie a voi, e a presto. Buon lavoro. Ci prendiamo una pausa di riflessione, di sospensione. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, non solo siete al posto giusto, al momento giusto, come sempre, soprattutto se siete a casa o al massimo al lavoro, se avete dei turni particolari, ma state ascoltando un programma antivirus, nel senso che più lo ascoltate, più vi informate e più lo evitate, e io spero anche antistress, antiansia. Roberta Giordano sempre con voi, anche se c'è per esempio Licia che scrive a te, a tutti i conduttori della radio, magari a qualche notiziario, risparmiateci qualche numero di decessi, scrive, contagiati, asintomatici, è già abbastanza triste vederci tarpati nelle nostre libertà, già siamo un po' depressi per tutto quanto sta accadendo e a quello che si sta preparando, distanziamento sociale eccetera, altrimenti fra un po' veniamo tutti ricoverati in psichiatria, grazie, sono sicura della vostra comprensione, scrive Licia, e certamente ci comprendiamo tutti, Licia, nel senso, da una parte le vittime è una cosa terribile che strazia le nostre coscienze, immaginiamo le loro famiglie. E però cerchiamo noi naturalmente di andare avanti, anche appunto di non avere toni pesanti, anche perché non aiutano, però la situazione è questa, cioè come giornalisti, conduttori dobbiamo informare tutti i giorni, insomma. Cerchiamo di vivere al meglio chi ha una vita accettabile, chi è sano in questo momento, e di non deprimerci, anche se è comprensibile, addirittura parlano i psicologi di un rischio effettivamente, come dice la nostra ascoltatrice, depressione, però cerchiamo finché possiamo di mantenerci tonici, di mantenerci il più possibile tranquilli, perché se si perde anche il proprio equilibrio diventa veramente complicato per tutti. Quindi cercheremo, Licia, io sono contenta che tu ascolti, evidentemente, se senti tutti questi dati, questi numeri, però non possiamo fare a meno di fornirli. Adesso però parleremo di come possiamo passare a questa fase 2. Credo, speriamo che non ci deprimiamo anche con questa cosa, che tra l'altro è volontaria. Mi pare troppo presto per poter rispondere. Dobbiamo pensarci, cominciamo questo percorso, facciamo un passo alla volta, poi quando avremo visto che alcuni passi girano, funzionano, riusciamo a mantenere l'epidemia dentro una soglia, dobbiamo essere però anche molto consapevoli, credo l'ha detto Gianni Rezza, io lo ribadisco, non è una cosa che si esaurisce in una settimana, in un mese, ci accompagnerà per i prossimi mesi e ci accompagnerà fino a quando non avremo un vaccino disponibile in decine di milioni di dosi. Il tema è come conviviamo evitando che la circolazione sia tale da creare dei punti di crisi. Questo è il tuo Brusaferro, del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi non ci deprimiamo ulteriormente, tutti guardiamo chi insomma sta abbastanza bene all'estate, no? Siamo blindati ai arresti domiciliari o anche lavorativi, aziendali, per chi riesce ad andare al lavoro, e tutti guardiamo all'estate come un momento di libertà, che non sarà proprio libertà, ma insomma speriamo di poterla vivere in qualche modo. Vi dicevo, in questi giorni ne parlavamo anche ieri col presidente dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, Fagioli, che tra le misure che si stanno per adottare, non solo in Italia, per le progressive riaperture, la circolazione delle persone, ci sono le app, le applicazioni tecnologiche per il tracciamento della diffusione del virus. Per questo obiettivo il governo, sapete che nelle scorse settimane ha creato questa task force per scegliere tra le tante proposte l'applicazione più rispondente, più idonea per questa particolare esigenza, questi frangenti, e ne fa parte anche l'autorità garante per la privacy che abbiamo avuto qua rappresentato dal segretario generale. E ieri è arrivata la notizia che la Commissione europea ha dettato delle regole univoche per i vari governi dell'Unione europea, con applicazioni di tracciamento del contagio del virus che abbiano come principi cardine l'anonimato, la volontarietà sia il Bluetooth, niente però geolocalizzazione. E sempre l'Unione europea sostiene un approccio comune dei governi per costruire una piattaforma tecnologica. In Italia è stata fatta la scelta, vero Enrico Pagliarini? Sì, buonasera. Quale applicazione è stata scelta? Allora, la proposta di una società che si chiama Bending Spoons, una società che nel settore è molto nota. Italiana? Italiana, sì, è stata fondata da giovani, sono 35 anni grosso modo, giovani tra ingegneri ed esperti di design, hanno creato delle applicazioni di grande successo, quindi sono dal punto di vista tecnico-tecnologico molto bravi. Questa applicazione verrà donata, regalata, perché il progetto è no profit, al governo italiano, che poi dovrà decidere come utilizzarla. Infatti una cosa molto importante è che qui stiamo parlando di un tassello di un sistema che dovrà essere messo a punto, perché questa applicazione dovrà fare il tracciamento dei contatti e avvisarci se noi siamo entrati in contatto con un positivo, ma quindi significa che i positivi vanno trovati, e i positivi li troviamo facendo tanti tamponi. Quindi se non mettiamo insieme un progetto paese per coordinato, articolato, già, l'applicazione serve a poco o a nulla. Certo. Ecco, poi hai fatto bene a ricordare che è su base volontaria, però se non la adottano la stragrande maggioranza degli italiani, si parla di almeno un 60% delle persone che dovrebbe esatto, adattarlo. Perché se ce l'abbiamo in quattro, ovviamente girano un sacco di persone positive, ma nessuno sa che quelle persone stanno girando. Si chiama Immuni questa app, no? Si chiama Immuni, sì, è un nome così Ecco, dicevo, nessuno sa che quelle persone hanno passeggiato e si sono entrati in contatto, perché come funziona questa applicazione? Fondamentalmente, se io e te abbiamo questa app, noi quando potremo gireremo, andremo in un negozio, andremo al lavoro, i nostri telefonini si parleranno in maniera anonima, perché nessuno deve inserire nome e cognome in questa applicazione, e terranno traccia di tutti i nostri contatti. Se non succede nulla, l'applicazione non i contatti, attenzione, non chi chiamiamo, con chi parliamo, con chi chattiamo, no? Ma con chi ci avviciniamo fisicamente. Esatto, diciamo che il mio telefono e il tuo telefono tramite Bluetooth si scambiano dei numerini anonimi, che non sono i numeri di telefono, sono dei codici anonimi, ok? Se nulla accade, noi continuiamo a vivere tranquillamente. Se un giorno, facciamo un'ipotesi, che una persona con cui noi siamo entrati in contatto, cioè ci siamo avvicinati, e anche quella persona ha l'applicazione, e lei viene o lui viene scoperta essere positiva perché va a fare il tampone, eccetera, eccetera, l'autorità sanitaria, quindi il medico, avrà una sua applicazione, introdurrà nell'applicazione di quella persona un codice, e a quel punto tutti quelli che sono entrati in contatto con lui e i telefonini ne hanno tenuta traccia verranno avvisati, e gli verrà detto: caro amico, guarda che tu sei entrato in contatto con una persona che è risultata essere positiva. Non ci verrà detto sei entrato in contatto con Pinco Pallino, con Luigi o con Elena. No. Senti, però Enrico, il fatto sta che è volontaria, ma i positivi invece dovrebbero scaricarlo obbligatoriamente sul cellulare, sennò come fai a sapere se ci sono dei positivi vicino a te? Questo è infatti uno dei problemi. Vedremo come verrà adottata e quali saranno le regole per adottarla, però non ci dovrebbe essere nessun obbligo. Si spera che, avendole tante persone, ci sia un'alta probabilità che chi viene trovato positivo abbia l'applicazione. Così funziona, se no non funziona. Anche perché chi fosse trovato positivo non dovrebbe uscire di casa, fra le altre cose, la cosa importante è che l'applicazione dice a tutte le persone che sono entrate in contatto che quella persona nei 14 giorni precedenti hanno avuto un contatto con lui. Certo, quella persona dovrebbe stare in casa, speriamo possa stare in casa, se non addirittura all'ospedale. Però la cosa interessante e importante, e dovrebbe essere, diciamo, la chiave del successo, è che l'applicazione dice a tutte le persone che sono entrate in contatto che cosa è successo nei 14 giorni precedenti, che sono un po' il... Tra l'altro questa app è in partnership, che vogliamo chiamare, con questa società milanese che dicevi, Bending Spoons, di questi giovani, e con anche la rete lombarda di polio ambulatori in Sant'Agostino? Sì, ci sono alcune società che si sono messe a disposizione per creare, per mettere assieme le competenze, però questo gruppo di lavoro ha firmato un contratto con il governo, col commissario Arcuri in modo particolare, per cedere gratuitamente tutto questa, il lavoro. Cosa. E a questo punto, infatti qui ci sono molti punti interrogativi, perché a questo punto noi non sappiamo se sarà la protezione civile, se sarà una struttura che verrà creata, sarà il Ministero della Salute, sarà l'Istituto Superiore di Sanità, chi poi avrà le chiavi per far funzionare questa applicazione. Quindi intanto è stata scelta, poi bisognerà vedere come verrà messa in pratica e da chi. Lontani cioè prima di qualche settimana sicuramente difficilmente vedremo che cosa questa applicazione. Comunque il professor Giovanni Comandè, professore di diritto comparato e direttore del LIDER, Lab della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che fa parte di questa task force di 74 esperti, ha detto: l'anonimato tombale è scomparso, non è possibile l'anonimato totale con le tecnologie attuali, con il tempo, le risorse, le strutture giuste, nessun dato è anonimo, si può risalire all'identità di una persona con gli attacchi informatici che possono mirare alla propria reidentificazione. Nelle app di tracing non vedo grossi rischi se si adottano le misure tecniche e organizzative adeguate ed è quindi rispettata l'espressione di sufficiente anonimato contenuta nel... Comunque diciamo che questa app è assolutamente anonima, perché nessuno sa e nessuno potrà sapere, perché i telefoni si scambiano dei numeri che non hanno significato per i codici, dei codici numerici, né nomi né... delle sorte di codici fiscali lunghi alle decine di cifre, cioè non stiamo parlando di cose comprensibili. Quindi questo è giusto un inizio. Sì, tra l'altro tu Enrico ne parlerai anche a 2024, sì, subito dopo Effetto Notte alle 22:05, non perdete. Su varie cose, perché ad esempio anche Google e Apple, che hanno i sistemi operativi dei nostri smartphone, si sono messi a disposizione per creare, diciamo, una base affinché queste app dialoghino tutte. Perché sai, anche qua è il problema: quando ci potremo spostare in Europa, se l'applicazione italiana non dialoga con quella francese, a che serve? A che serve, esatto. Molto, diciamo, molto complessa la questione. Sì. Grazie Enrico Pagliarini, grazie a, voi, a dopo serata. Con 2024, ciao. Viabilità. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tante notizie che purtroppo non sono buone. Roberta Giordano, sempre con voi, mi dispiace per l'ascoltatrice che dice che certo questo deprime, però adesso è arrivato il dato dell'agenzia France Press, che sono superati 150.000 morti nel mondo, per capire la gravità della questione. E per quanto riguarda gli Stati Uniti ci sono 33.000 morti e 670.000 casi. Quindi per questo parliamo con Riccardo Barlam. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi è stata una giornata record di morti negli Stati Uniti, 4.600 in 24 ore. E appunto siamo a 33.286 morti, quasi 700.000 casi, il primo paese al mondo. E fa impressione pensare alla prima potenza mondiale, appunto, dove c'è questo spettacolo, l'avrete visto qualche giorno fa, delle fosse comuni, nel Bronx, dove le persone che non hanno parenti, o gli homeless, o gli anziani che non hanno nessuno, vengono seppelliti, a sapere lì che all'esterno degli ospedali ci sono questi camion frigo. Insomma, è una situazione veramente drammatica. Io ho parlato in questi giorni con delle persone che lavorano in ospedale a New York, sì. Ho un amico che fa l'anestesista americano, che ha fatto il coronavirus, è guarito e adesso lavora come volontario per aiutare i medici nei vari ospedali americani, e un'altra persona che lavora in un terapia intensiva in un ospedale dei veterani, il Bronx, quindi un ospedale dove ci sono tanti anziani, e lei mi ha raccontato che ogni giorno ha 20 posti letto e ogni giorno ci sono 2-3 morti, e appena questi 2-3 morti vengono spostati arrivano altre persone che sono al pronto soccorso, che non hanno posto e hanno bisogno di questi ventilatori. La situazione è veramente complicata, e la cosa positiva delle ultime ore è che Trump sembra si sia, come dire, abbia ripensato a questa idea di riaprire il paese. No, aspetta un attimo, Riccardo. Intanto ricordo che tu hai fatto un bel reportage che andrà in onda su Radio 24 domenica alle 8:15, proprio su New York sotto quarantena, e anche di questo incontro che ha avuto con un insegnante. Parli di 1 milione di studenti a New York, e su 1 milione di studenti 200.000 che non hanno accesso a internet, non riescono a seguire corsi, eccetera. E farai, appunto, l'ascolterete domenica alle 8:15. Però a proposito di Trump, io vedevo proprio adesso delle agenzie. Trump soffia sulle proteste verso i governatori e dice con i tweet: liberate il Minnesota, liberate il Michigan, liberate la Virginia, salvate il vostro secondo emendamento, è sotto assedio. Con 3 distinti tweet, Donald Trump sollecita la riapertura di altrettanti stati, soffiando sul fuoco delle proteste. Allora, la questione è che nel paese si va a votare quest'anno, lo sapete, sì. Questa storia del coronavirus. E questa storia del coronavirus ha rovinato tutti i piani del presidente, e i sondaggi sono in crollo, e nel modo un po' maldestro con cui sta gestendo questa emergenza. E lui, fino a qualche ora fa, adesso ci riprovo di nuovo, i suoi consulenti economici, i suoi consiglieri economici lo spingono a riaprire il paese. Ci sono alcuni stati dove la cosa si può gradualmente fare, perché la situazione è meno grave che per esempio lo stato di New York o anche in California, e altri dove non si può fare. C'è da dire che secondo la Costituzione americana il 10° emendamento prevede che la salute pubblica viene in qualche modo decisa dai governatori, uno Stato federale, gli Stati Uniti sono uno Stato federale, il governo, in questo caso Trump, deve sostenerli e deve dare le linee di indirizzo. Lui all'inizio diceva che comanda lui, che quindi lui avrebbe deciso l'apertura di tutto il paese come voleva, si parlava del 1° maggio addirittura, quando non è stata ancora, non si parla ancora del picco, non sembra che sia all'orizzonte, anche se qualcuno parla di 2 settimane, ma insomma la situazione reale poi che è quella che mi raccontava l'infermiera del Bronx, che ogni giorno vede purtroppo i morti che escono sulle cabine frigorifero degli ospedali. E Trump nelle ultime ore ci aveva un po' ripensato, ha detto che farà una riapertura graduale, quindi saranno i governatori, ha detto, a decidere a seconda appunto delle situazioni quando e come riaprire, no? Però evidentemente ci sono 10 governatori che sono per un approccio prudente, graduale, e gli altri che protestano, e quindi la situazione, diciamo, e quindi la situazione è così, è tutta una vediamo tra le nostre regioni, figuriamoci tra stati federali, cioè 50 stati negli Stati Uniti. Grazie. Il paese è un po' più grande e la cosa è totalmente più complicata. Chiaro. Complicata e fuori controllo dal numero di casi e delle vittime, purtroppo. Grazie Riccardo Barlam. Ciao caro Riccardo, un abbraccio. Ciao. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. E adesso è tempo di chiedere che tempo farà dalla finestra il nostro Paolo Corazzone di Trebimeto, caro Paolo. Buonasera Ciao, Roberto, Paolo. Buonasera a tutti. Guarda, ci risiamo, weekend nel complesso bello, quindi grandi cose non succedono. Un po' di nuvole si faranno in realtà vedere sulle regioni tirreniche, sul nord Italia, un po' come è capitato in questi giorni, ma nubi di poco conto. La Sardegna è l'unica regione che potrebbe vedere 4 gocce. Comunque guarda, in tutta Italia temperature oltre i 25 gradi, quindi temperatura addirittura da mese di maggio. La cosa preoccupante è la mancanza di pioggia. Due volte che sul nord Italia l'ultima perturbazione vera è passata il 20 di dicembre, dopodiché basta, non abbiamo visto più nulla e ancora non vedremo nulla. Lunedì farà 4 gocce, ma ringraziare, rischia di essere l'unica giornata del mese in cui pioverà, altro che aprile, ogni goccia un barile. Insomma, situazione critica, esistono problemi più importanti sicuramente in questo periodo, ma anche il fatto della mancanza di pioggia lascia il segno, quindi incrociamo le dita perché se non cambia qui diventa un po' critica. Quindi come se ci mancassero problemi, insomma, oltre al coronavirus anche la siccità. Prendere con filosofia, insomma, speriamo, faremo la danza della pioggia, che dobbiamo fare. Grazie Paolo Corazzone di Trebimeto, buon tempo a te comunque sia, sempre grazie dalla finestra. A te, buon tempo a tutti, ciao. Ciao Paolo. attesa di vincere, ci sentiamo alle 22.